21 giugno 2004, meno 9 al passaggio dei poteri al nuovo governo provvisorio iracheno. Quella del 30 di giugno è una data attorno alla quale si concentrano le attenzioni di più parti, ognuna con le proprie attese, ansie e paure. Da un lato l'amministrazione americana e i suoi alleati in Occidente, in primo luogo Londra e Tony Blair. Per loro questo anno dalla dichiarazione ufficiale della fine delle ostilità in Iraq è stato particolarmente avaro di buone notizie. La speranza ora è per una transizione serena dall'occupazione militare all'instaurazione di un governo nazionale, per quanto a sovranità limitata nei tempi e nei modi. È una speranza forzata dalla necessità di riconquistare opinioni pubbliche disilluse nei confronti di due amministrazioni che si preparano ad affrontare elezioni in tempi brevi e che si scontra con la realtà sul campo di una resistenza alla presenza di forze militari straniere in Iraq, sempre più organizzata e sanguinosa. Dall'altro, parte dell'opinione pubblica internazionale, dei partiti di opposizione e dei movimenti antagonisti alla guerra che sembrano attendere questo passaggio come un ulteriore esempio di gestione malaccorta di un conflitto fortemente osteggiato dal principio. Prigionieri di queste attese contrastanti rimangono le Nazioni Unite impegnate in un tentativo di riguadagnare un ruolo centrale nella gestione dei conflitti internazionali che non potrà che rivelarsi irto di rischi e difficoltà, ma soprattutto gli iracheni che sempre più nel corso di questi anni si sono trovati a giocare il ruolo di pedine in una partita a scacchi in cui le loro sofferenze sono state usate come merce di scambio al mercato della realpolitik. Dire che ci si trova al crocevia di una situazione complessa, di cui nessuno riesce ancora a prevedere l'esito finale, sarebbe sottovalutare la situazione. Per cercare di capire meglio come la vigilia di questa data venga vissuta dalle donne e gli uomini in Iraq, poche persone sono meglio attrezzate di Barbara Contini, l'attuale governatrice della provincia meridionale di Dikar, un'esperienza alle Nazioni Unite e in diverse organizzazioni umanitarie alle spalle. È una donna che è stata più volte descritta come decisa e pronta a prendere rischi che altri suoi colleghi preferirebbero evitare. Quando la raggiungo a Campo White Horse, a 30 km da Nassiriya, dove la sede CPA si è trasferita per ragioni di sicurezza, la trovo una persona aperta e disponibile a parlare della sua esperienza e che ha chiaramente a cuore i problemi che si trovano a vivere le persone che sono state affidate alle sue cure. L'ansia e l'attesa che stanno sempre più prendendo governanti e opinioni pubbliche occidentali non si riflettono in una realtà irachena fatta di gente comune che quotidianamente lotta con la mancanza di lavoro, sanità e servizi essenziali e per cui l'endemica mancanza di sicurezza significa vivere ogni singola giornata nell'incertezza costante e reale che possa essere l'ultima. In questa situazione i bisogni di queste persone devono avere la precedenza su considerazioni puramente politiche come l'assetto del futuro governo iracheno, visto soprattutto nella sua dimensione provvisoria. Riprende così centralità l'ONU nella sua veste non solo di mediatore istituzionale, ma soprattutto di organizzazione umanitaria in grado di avere un reale impatto nella vita quotidiana degli iracheni. A questo si aggiunge il ruolo delle ONG, che fino ad oggi sono rimaste in gran parte alla finestra. A parte le comprensibili considerazioni di sicurezza, è giunto il momento che chi ha la possibilità di migliorare le condizioni di vita delle donne e degli uomini che vivono oggi in Iraq faccia la sua parte. Gianluigi Corbani, reporter associati per Amnesty Net Radio.